per esempio, l'onestà. Che significa in un altro modo la lotta dichiarata alla corruzione? Ma non alla corruzione, proprio alla corruzione di sistema, alla microcorruzione del quotidiano. Tutte le battaglie che facciamo per la legalità sono in realtà battaglie strettamente legate a una lotta contro la microcorruzione del quotidiano. Voi sapete che una delle forme di microcorruzione che più pesantemente danneggia i giovani è l'istituto della raccomandazione. Perché nell'istituto della raccomandazione le persone non sono, come dire, misurate dal loro talento, dal loro merito, dal loro valore. Se voi chiedete ai giovani qual è la maggiore garanzia di trovare il lavoro oggi, sapete cosa vi dicono? La raccomandazione. Il loro investimento è una raccomandazione. Ci sono dei padri che sono venuti a raccontare che i figli gli hanno rimproverato di non essere in grado di procurargli nemmeno una raccomandazione sensibile per poter trovare lavoro. Ma tu che cosa hai fatto finora che non sei stato capace, che non sei capace di trovarmi una raccomandazione, che sia una raccomandazione efficace? Poter rivendicare il valore, diciamo tra virgolette, della forza della testimonianza significa però, e voglio passare alla seconda ed ultima passaggio di questa mia conversazione di questa sera con voi, significa sapere che la cosa fondamentale con i figli è aiutarli a trovare un coach, cioè un allenatore. Ed è questo che io devo chiedere alla scuola. Un genitore deve chiedere alla scuola di essere un allenatore sufficientemente esigente, competente, capace di trasmettere serenità, sicurezza e autostima ai ragazzi senza sottrarre loro nulla della fatica del crescere. Non posso andare alla scuola a chiedere di accarezzare il mio bambino. È come se voi dicessi: ma tu dove vuoi giocare a calcio? Nel campetto dietro casa? Il campionato del collegio? Oppure vuoi giocare, mettiamo, in Serie A? E devo dire che è sì che l'ambizione di un padre deve essere che il figlio giochi, diciamo, in Serie A nella sua vita. E quindi è sì che l'ambizione più forte di un padre deve essere, di un padre e di una madre evidentemente, deve essere quella di trovare un allenatore forte. E se l'allenatore non serve, lo posso pure cambiare, come nelle migliori tradizioni delle squadre di calcio italiane. Ma non posso rinunciare all'allenamento. Non posso rinunciare. Guardate, stamattina parlando con le vostre figlie, immaginando che alcune delle ragazze che c'erano le vostre figlie, forse il problema che loro mettono a fuoco più facilmente in una scuola come questa è la problematica legata alla scuola omogenea. E quindi, detto in un altro modo, è la problematica legata al fatto che non ci sono i ragazzi. E che è un'esigenza assolutamente naturale nell'età dell'adolescenza. Tutto il risveglimento, tutto il risveglio affettivo, tutto il risveglio emotivo, peraltro in un contesto culturale come in quello in cui viviamo, in cui c'è, come dire, un bombardamento, anche un bombardamento sensoriale forte, tutto quello che fa, peraltro anche sotto altri aspetti, della condivisione profonda di tutte le sensazioni, le emozioni. Cioè, e io capisco che sia un valore che loro possono cercare. Ma io credo che il valore principale, che è un valore che va coltivato, attenzione, vanno individuate situazioni, circostanze, concretezze, per cui anche tutto lo sviluppo affettivo ed emotivo possa trovare il suo spazio. Ma io alla scuola chiedo di essere il contesto in cui si allenano nel miglior modo possibile le capacità intellettuali, il carattere, la capacità di prendere decisioni, la consapevolezza, l'autostima, tutto un insieme di quelle, chiamiamole così, virtù e qualità, che sono quelle che quando voi andate a compilare il famoso curriculum europeo, a un certo punto c'è una fascia che dice: descrivi te stesso. E in quel descrivere non conta tanto il titolo di studio, conoscete tutti quanti, anche la dialettica che cerca di mettere in dubbio il valore legale del titolo di studio. Non mi basta il pezzo di carta se quel pezzo di carta non porta con sé uno spessore di capacità, uno spessore di valori. Cioè, se io non sono davvero, per dirla ancora una volta con un'espressione biblica, una donna forte. E la stessa cosa vale evidentemente per i ragazzi. Cioè, se noi non riusciamo a restituire a questa solitudine dei giovani la consapevolezza che loro possono e debbono avere dentro di sé queste risorse di autonomia da spendere in un rapporto di collaborazione, in un rapporto di integrazione, in un gioco di squadra, ma da aver lavorato su di sé, di che mi serve? Allora ecco che il progetto per il futuro dei figli che i genitori fanno non può che essere un progetto tutto giocato sulle qualità umane. Non è tanto liceo classico, liceo scientifico, istituto tecnico, quello che sia, non è tanto il titolo, ma non è nemmeno questa scuola, quella scuola o quell'altra. Il problema è qual è il contesto nel quale mio figlio sviluppa prima, più e meglio quelle qualità umane che oggi sono indispensabili per confrontarsi con un contesto difficile, con un contesto altissimamente competitivo, con un contesto in cui nulla ti verrà dato gratis, in cui dovrai raspare fino all'ultimo per cercare di creare, di inventare le tue posizioni e le tue situazioni. Sei una persona, diciamo, forte, anche di quella stabilità d'animo che ti dà la maturità emotiva. Sei capace di, come dire, progettare situazioni all'interno delle quali tu possa davvero essere colei che assume o colui che assume con naturalezza, con eleganza umana, il controllo di una situazione che ha come obiettivo, diciamo, non solo te stesso, ma mettiamo pure la costruzione del bene comune, mi riferisco a tutte le iniziative di volontariato, di servizio, di iniziative nazionali e internazionali a cui partecipano le scuole. Alla fine io questo ti chiedo, e questo è il progetto per il futuro, perché a parte che questo è un momento di una situazione spaventosamente complicata per tutti, a parte che in questo momento è difficilissimo per chiunque fare previsioni di qualunque tipo, l'unica cosa che io posso, su cui posso scommettere è che tu abbia sviluppato quelle qualità umane in modo forte, deciso, che ti permettono di affrontare qualunque ambiente, andare anche all'estero, andare all'estero, affrontare questo, affrontare quest'altro. E hai studiato, come dire, da avvocato e ti trovi a fare il dirigente d'impresa, hai studiato da economista e invece ti trovi a fare, che so io, il professore universitario, quindi non colui che, ma colui che discetta di economia, ma non colui che fa economia. Hai studiato medicina e ti trovi a fare una cosa diversa, ti trovi a fare magari l'assessore alla sanità, per cui il medico i malati nemmeno li vedi disegnati. Però stai lavorando per quell'obiettivo. Qualunque cosa ce l'hai dentro di te. Ce l'hai dentro di te questa forza. Perché questa è l'unica scommessa che io posso fare per il tuo futuro. E la faccio con te, sapendo che io comunque non scenderò in campo a giocare la partita. La partita la giocherai tu. Io probabilmente o sarò l'allenatore, o non sarò nemmeno l'allenatore, sarò, ma nemmeno il preparatore tecnico, probabilmente sono solo l'azionista della squadra, o forse sono il grande manager della squadra, ma non sono io che giocherò la partita in campo, quella te la giochi tu. Quindi è inutile che io dico, scusi, la palla non gliela potrebbe mettere a mio figlio un po' più vicino, perché sennò lui non riuscirà mai a prenderla. E in questa dialettica noi abbiamo bisogno di trasmettere ai ragazzi un messaggio di fiducia molto forte sul fatto che ce la possano fare, perché è vero che ce la possono fare, perché quelli di noi che ce l'hanno fatta sempre solo rimboccandosi le maniche, in un contesto diversamente difficile. Ma io sono certa che voi non potete garantire ai vostri figli un contesto facile. E non potete nemmeno prevedere quali saranno le difficoltà con cui si misureranno, perché queste difficoltà di oggi 5 anni fa non erano prevedibili per nessuno. Però c'è chi ha tempra, c'è chi ha carattere, c'è chi sa avere un ottimismo realista, c'è chi sa avere pazienza e sa comunque adattare gli eventi ai propri talenti, alle proprie capacità, assumendo poi quel tanto di flessibilità che adatta una parte dei propri talenti alle situazioni concrete con cui si trova a misurarsi. Io credo che questa è la vostra sfida con i vostri figli, questo è il progetto. Non è un progetto di cose da fare, è un progetto di qualità da sviluppare, ma quelle qualità sarà lui che le deve sviluppare, non voi. E quindi è un progetto che necessariamente li vede protagonisti di questa avventura. Grazie.